muda, affogavi nel pianto di lacrime figlie del vento, e nuda restavi distesa, Margherita uccisa dal tempo. I natali ricordi eran colmi, divisi, passati oramai, rubati dal giorno comune che cadrà su ognuno di noi. Sole, ma baci affamati e poche parole, abbracci confusi al rumore del cuore, certezze stravolte da quel poco amore.